fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. L'1:57 del mattino, sempre in collegamento con Resto Radio Convento, sabato 10 novembre del 2018. Il convento è noto, o almeno questo lo dicono i nostri amici, i nostri ospiti, per essere appunto un posto familiare, per essere un posto che mette a proprio agio, ecco, diciamo così, e a volte si creano anche dei legami particolari, dei rapporti particolari, come questi ragazzi che sono non solo assidui frequentatori, e questo è un bene, ma soprattutto grandi affezionati, e penso che possano dichiararsi parte della grande famiglia convento. Ed è un piacere averle ai nostri microfoni, anche perché stasera è veramente una serata importante e speciale, ed era giusto che passassero di qui a raccontarci qualcosa. Allora, benvenuti, partiamo, solitamente si fa per galanteria dalle donne, ma questa sera ribaltiamo un po' gli schemi, perché per questa volta partiamo dal festeggiato. Benvenuto Filippo. Grazie, grazie. Oh, benvenuto, benvenuto. Da dove venite, ragazzi? Allora, veniamo da Zappello, che è un piccolo paesino vicino a Crema, provincia di Cremona. Quindi, ecco, sottolineiamo che Crema non è proprio dietro il lago di Garda. No. Sono quindi centinaia di... ecco, insomma, non è che se la fanno, vabbè, poi c'è l'autostrada, cioè Cremona, autostrada Brescia, immagino, no? Sì, noi voi fate tutta la tangenziale. La Brebemi. Ah, la Brebemi. Facciamo un pezzo di Brebemi, poi veniamo sulla A4 e poi... Comunque, non comoda, quello no. Sicuramente, però come dicevamo prima, per i momenti importanti, per le serate importanti, non c'è strada, questo non c'è altro chilometraggio che tenga, e infatti questa sera lo è. Dici un po', Filippo, raccontaci che succede. Stasera? Sì. Com'è andata la serata? No, beh, intanto perché è stata organizzata questa serata, che è la cosa più importante? Allora, l'abbiamo organizzata questa sera perché è il mio compleanno, e quindi come 4 anni a questa parte, sì, veniamo 4. Qui. Appuntamento fisso, appuntamento ormai fisso, perché diciamo che l'abbiamo un po' visto crescere e diventare grande. Maggiorenne. Ma soprattutto perché questo locale offre tutto quello che serve per una festa perfetta. No, bello, da grazie. Divertimento, a una cena fatta aperitivo, bene. Cena, aperitivo, cena, divertimento, bella musica, gente simpatica, dove l'intrattenimento non manca, e quindi c'è un mix giusto, diciamo, per far sì che la serata sia perfetta. Perfetto. Per un compleanno, anche per un qualsiasi evento. Perfetto, grazie mille. E quindi quest'anno è il turno dei anni? Anni 31. 31, ok. Ma sono 41. La questura dice 41. Ah, la questura dice 41, però dichiarati TG 31. Ok, il TG dice 31, perfetto. Allora, noi, visto che si dice che i TG hanno sempre ragione, noi continuiamo a tenere botta sui 31. E ho visto tanti amici, chiaramente, come è bello e giusto che sia in questa serata, e qualche collega o tutti amici e parenti al vostro tavolo? Parecchi amici, qualche collega di lavoro, ma maggior parte amici. Tutti i cremaschi, tutti amici, anche loro? Tutti sempre dai nostri paesi. Quindi ecco, anche loro si sono fatti una bella smazzata questa sera. Sì, molta gente, era la prima volta che veniva in questo locale, e invece la maggior parte della compagnia c'è già stata. Beh, però penso che in queste occasioni, al di là del, passami il termine, materiale, cioè il fatto della festa e tutto il resto, forse il regalo più bello è capire quanto molte persone tengano a essere presenti alla tua festa, nonostante la strada, la distanza, chiamiamola fatica, però comunque insomma bisogna verificare un centinaio di chilometri, e quindi questo penso che sia l'arricchimento e il regalo più bello, perché ti senti anche un po' importante, nel senso giusto, non importante VIP, però è importante dire cavolo, ho della gente che tiene a me, e insomma forse ho lasciato un bel ricordo, qualcosa di bello nella vita di qualcuno. C'è gente che ci tiene, e quindi questo è il lato positivo, diciamo, che quando riesci a organizzare una bella tavolata come riusciamo tutti gli anni al mio compleanno, questo è un grandissimo biglietto da visita, e soprattutto una soddisfazione personale per il fatto che c'è tanta gente che c'è ancora come amico, diciamo, certo, vista anche l'età, che non è più proprio fresca e rosa. Sì, e poi ripeto, comunque tutti i rapporti abbastanza importanti, perché sennò la scusa del vabbè, ma 100 chilometri fa la Cremona, no? Certo. Fa la Cremona. Cioè c'è un po' quella mentalità qua ogni tanto, però questo è anche sintomo di vabbè, insomma, voglio esserci, ma non fino a questo punto. Qui c'è chi ti segue e dice: oh, è la tua festa, tu l'hai organizzata lì, ci tengo a venire e vengo, chi se ne frega, cioè, nel senso, a prescindere dai chilometri. Se l'hai organizzata tu lì, io, è giusto che, cioè, è la tua festa, è giusto che ti segua. Bene, bene. E a proposito di gente che ci tiene a te, diciamo che c'è al tuo fianco probabilmente qualcuno che ci tiene in modo particolare. Adesso non so se è già moglie o solo compagna, ma non voglio. Compagna, però è un perno importante anche in tutte le organizzazioni, manifestazioni che mi riguardano. Beh, è bello comunque, quello comunque. Condividere anche questa cosa. È quella ne, che ci ne organizziamo tante di feste. Vabbè, ma è bello condividere questa cosa. E poi, anche se passo molto veloce avanti, è un compleanno questo molto molto importante, perché non so quanto a breve, ma relativamente breve, ci sarà un altro felicissimo evento, giusto? Giustissimo, lascio la parola. E beh, adesso la protagonista diventa lei, la protagonista diventa lei. Eh sì, Tanto come ti chiami? Denise e diciamo che questa primavera diventeremo genitori. Più o meno, hai già una data più o meno in testa? Fine aprile diventerete genitori. Sì, per la prima volta. Di Thomas. Già definitivo quindi? Già definitivo. Siete, immagino di sì per come mi hai risposto, però siete della categoria lo voglio sapere, mi voglio organizzare quindi? Ma diciamo che eravamo curiosi a prescindere, ma non per organizzarci, cioè i nomi li avevamo già. Sì? C'è stato Valentina per la femmina e Thomas per il maschio. E alla fine dovrebbe essere, dovrebbe. Non è ancora che dovrebbe essere. Ah, ok. Però. No. Beh, allora giriamo la domanda. L'avreste voluto sapere o avreste aspettato l'ultimo? No, io voglio saperlo. Vuoi saperlo? Come mai? La curiosità. Curiosità. Perché poi quando ti trovi davanti, che c'è questo schermo, che tu lo vedi che tutto si muove. Non ce la fai. Prescindere che prima chiedi tutto a posa, poi dici scusi ma si vede già che cos'è. Non ce la fai. Per forza. Sì, poi è anche un po' un casino in quei casi, perché tanti hanno visto, tanto si può dire perché i bambini hanno visto un pisellino dove c'era un altro pezzo di corpo, quindi sì, si sono già illusi. Infatti, sul maschio, esatto. È uscita una femmina e sono rovinate delle famiglie. No, vabbè, allora, perché semplicemente all'ecografia hanno confuso delle parti del corpo. È andata così, durante la traslucenza, che è un esame particolare, l'ostetrica mi ha detto che ero, questo è un bel maschietto. Il giorno dopo siamo andati dalla mia ginecologa a fare la visita e mi dice anche a me sembra un maschio, però io aspetterei ancora un mesetto a comprare sì, le cose. Ok. La cosa è andata così. Ok. Diciamo che 99.9. Diciamo esatto, c'è un buon 99 che è già un buon partire. È un lui. Poi vedremo la vita cosa vi regalerà. A proposito, domanda complicata, ma visto che è la prima volta mi interessa saperla. Come, anche qui passate la domanda, come si impara a fare i genitori? O come ci si prepara anche a fare i genitori? Non c'è chiaramente una laurea, non allora, c'è una scuola, però da cosa partite? Ecco, da cosa partite? Allora, partiamo da questo presupposto, che io la sera che gliel'ho detto, che è stata la sera che ho fatto il test, sono uscita dal bagno, io tremavo come una foglia, quindi, eppure era un desiderio grandissimo, ma quando... Ma non pianificato, quindi... No, vabbè, era quando arrivava. Sì, diciamo che il motto era se capita benissimo, però non pianificato, metodico, organizzato, contando i giorni. No, guarda, anche perché eravamo proprio in vacanza, cioè sereni. Sì, sì, più lontano da pensarlo, sì, ok? Sì, figurati, c'è proprio. Ok. Caspita, da lì cioè, tu ti rendi conto e dici... No, e poi cioè, il cervello va, comincia a andare. Comincia a andare il cervello, per forza. Oh, dobbiamo organizzare il nostro ultimo dell'anno al convento. Il nostro ultimo dell'anno al convento. Perché poi, cioè, capito, pensi a queste cose. Sì, cavoli. Cioè, l'anno prossimo le ferie, come fa? Cioè, c'è bambino piccolo, nasce a maggio, a fine aprile. Cioè, comunque queste cose ci pensi e ti senti già genitore. Poi per il papà secondo me è diverso. La mamma, cioè, tipo, io adesso... che sono quasi alla fine del quarto, che non sento niente perché è ancora certo, piccolino, ancora presto, e tu ti chiedi sta bene, tutto a posto, ma cioè sta andando tutto bene, cresce giusto, cioè ti fai queste domande, è chiaro, quindi sei già genitore dal momento che lo scopri. Certo, poi diventi in automatico dottore qui. Ma io sinceramente non saprei risponderti a questa domanda perché da cosa parti? Boh, io mi sento ancora io da curare, quindi sinceramente, bello questo. Non saprei, boh, quello che verrà, verrà. Speriamo quello che fare meno errori possibile. Quello che istintivo. Istintivo. No, sì. Però boh, magari partivi boh, dall'educazione che hai ricevuto, dagli errori dei tuoi genitori, dalle cose belle che ti hanno insegnato i tuoi genitori, sì, un po' dal tutto. Sentito dire degli amici. Cioè, ci sono tanti elementi da cui partire, era solo per capire. Quando lo trovi davanti. Io penso che alla fine l'educazione che abbiamo avuto noi dai genitori, visto che abbiamo avuto e abbiamo due famiglie abbastanza diciamo così sane, ancora sane, di sani principi sane? Col papà che si ritrova lei? Sì. Non prendiamolo in considerazione. Ah, ok, ok. Okay. Ma tutto sommato no, è un uomo no, di principio. Infatti lo detto, è bellissimo. Cioè che si diverta come si è divertito stasera è bellissimo. Sì. È bellissimo. Eppure lui, e cioè per dire, vedi mio babbo così, è così come lo vedi stasera. Però cioè, se c'è una cosa seria diventa la persona veramente più seria di questo mondo. Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Sì, ne parla seriamente con la maschera. Ah, ok. Sì, sì. Ne parla seriamente con la maschera, mi piace questa definizione. Vabbè, vedremo. Vedremo assolutamente, ci sarà tempo per parlarne e vi aspettiamo ancora per farlo. Intanto grazie Filippo per averci scelti grazie di nuovo. E speriamo che la festa sia stata all'altezza di quelle che hai sempre desiderato. Festa, voto 10. Bene, e bene. Qui concludo. Ci fa piacere. Ci vediamo il 31. Ci vediamo a Capodanno. Assolutamente. Allora alla prossima ragazzi, in bocca al lupo per tutto. Ciao. Ciao. Ciao.